Radio 24 Reportage. 100 anni di Giro d'Italia. Da Milano ad Alghero, pedalando nella storia italiana. Di Dario Ceccarelli. Giro Giro Tondo, ovvero 100 anni di Giro d'Italia, 13 maggio 1909, partenza da Milano, vittoria del varesino Luigi Ganna, 5 maggio 2017, partenza da Alghero, arrivo a Milano, maglia rosa da assegnare. In mezzo a queste 100 edizioni tutto, la corsa, i corridori, l'Italia, due guerre mondiali, la ricostruzione, il boom di CPC, terrorismo, Tangentopoli, Prodi e Berlusconi, Renzi e Grillo e questa terza repubblica che annaspa come un velocista in salita. E poi in un paese lungo e stretto ci sono loro, campioni e gregari, protagonisti e mezze tacche, però sempre a pedalare, sempre controvento. Ne ricordiamo 10 perché gira bene con 100, ma sono 1000 o 10.000. Il primo è costante, di nome e di fatto. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più Sante, è sempre più lontano, è sempre più distante. Costante Girardengo di Novi Ligure, il primo campionissimo che apre la strada nel 1925 al mito Alfredo Binda, l'unico corridore che viene pagato purché se ne stia a casa, troppo forte. Insieme a Coppi e Merckx, Binda vince 5 Giri d'Italia, l'aristocrazia del gruppo. Un omino con le ruote contro tutto il mondo. Un omino con le ruote contro l'Isoard e Vassù. Poi tra guerra e dopoguerra ci sono proprio loro, Bartali e Coppi, uno di ferro, l'altro di cristallo, ma di classe purissima. In mezzo ai due giganti Fiorenzo Magni, il terzo uomo, il leone delle Fiandre, quello che va sempre avanti anche con la clavicola fratturata. Sfide indimenticabili quelle tra Bartali e Coppi, sfide che dividono l'Italia e che inaspriscono la rivalità tra i due campioni. Solo in qualche pausa, qui in una famosa puntata del Musichiere, i duellanti si concedono una tregua. Ti ricordi quella volta che tu atteso a San Malò? Di memoria non ne ho molta, non ricordo proprio no. Mi ricordo viceversa che t'ho spinto sulla Spen. La memoria anch'io l'ho persa, non me lo ricordo ben. Che dirai mio comandante nel vedermi pedalar? Ti dirò seduta stante che è tutto da rifare. Giri d'Italia ne ho vinti tanti, senza mai prendere droghe eccitanti. Giri d'Italia lui sì li vinceva, ma le prendeva, oh se le prendeva. Dietro, ma proprio indietro, Luigi Malabrocca arriva sempre ultimo, ma sempre in tempo massimo per guadagnare il cospicuo premio che spetta alla maglia nera. Gli anni 60 sono travolti da una tempesta perfetta. Si chiama Eddy Merckx, un belga cannibale, agli altri briciole e amarezze. Solo Felice Gimondi, bergamasco timido ma d'acciaio, ogni tanto lo fa fesso e 3 giri sono suoi. Sentiamo Gimondi. Io feci un anno dove feci 17 secondi posti, però questi diversi dietro Eddy, quindi avevo già capito che dovevo modificare il mio modo di correre, il mio modo di essere in bicicletta, perché questo non perdonava. Io un po' duro anch'io di testa, non mollavo mai, ma lui, sai, io senza di lui avrei vinto delle gare, molte più gare in più. Oggi però questa nostra rivalità mi sta ripagando, perché ancora tanta gente dice Gimondi, hai capito? Quindi c'è sempre una compensazione nella vita, che conta fare le cose oneste e giuste. L'Italia va sempre più in fretta, in mezzo alle sfide degli anni Ottanta, quelle tra Saronia Moser e Bugno Chiappucci, dal gruppo, lanciato come un missile, spunta la sagoma di Mario Cipollini, 42 sprint al Giro d'Italia in 14 anni di carriera. Prova di forza di Mario Cipollini, Cipollini che vince davanti a Leoni e Baldato. E quando la strada si impenna, Cipollini lascia spazio a un ragazzo che, pur venendo dal mare, in montagna vola. È Marco Pantani e, come Icaro, volando troppo in alto, cade nel vuoto, lasciandoci come un sogno finito troppo presto. Marco Pantani, che può alzare il braccio, vince, sembra quasi che discuta con se stesso per raccontarsi questa splendida vittoria. Pantani entra nel mito con le sue luci e con le sue ombre, con i suoi trionfi e il suo triste epilogo. A riportarci al presente, in un paese sempre più sfibrato da una crisi che non è solo economica, c'è un ragazzo del sud che ricorda i migranti degli anni 60, solo che al posto di una valigia di cartone, Vincenzo Nibali, lo squalo di Messina, si porta appresso una bicicletta di carbonio con la quale vince due Giri d'Italia 2013-2016, oltre a un Tour de France 2014 e la Vuelta nel 2010. Adesso finalmente la maglia rosa sta andando a conquistare la prima tappa di alta montagna con arrivo in salita. Lo fa in maglia rosa, lo fa alla maniera dei grandi ed esulta sul traguardo come è giusto che sia. Vincenzo Nibali ha il Giro d'Italia più che mai in tasca. Una bella bici che va, silenziosa velocità, sopra le distanze, le lontananze starà. Una bella bici che va, silenziosa velocità, rotola la biglia, il Giro d'Italia farà. Una bici non si ama, si lubrifica, si modifica. Una bici si declama come una poesia per volare via. Come Merckx, Nibali nel 2013 mette il suo suggello rosa sulle tre cime di Lavaredo, in una tappa di neve di ghiaccio più adatta a Messner che a un corridore siciliano. Anche l'anno scorso, con una rimonta straordinaria sul Colle dell'Agnello, Nibali fa il bis. Una bella bici che va, roteante fluidità, bici futurista, bici d'artista sarà. Una bella bici che va, roteante fluidità, sagoma dinamica e geometrica avrà. Via allora, Vincenzo ci proverà anche quest'anno, anche per ricordare Michele Scarponi, suo ex compagno e amico, travolto da un camion a un passo da casa mentre si stava allenando alle 8 del mattino in vista del Giro d'Italia. Una morte da lavoratore della bici, qual era Scarponi, e quali sono tutti quelli che come lui rischiano ogni giorno la vita per raggiungere un traguardo, qualunque esso sia. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una bici vuole fama e chilometri e chilometri. Una bici è una dama, falla vincere, falla ridere. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.